Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14, con interviste registrate su spettacoli e festival in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci in collegamento telefonico con i Four Garden, Barbara Abbondanza, Serafino Iorli, Lucia Ciardo e Patrizia Bollini che presentano Circus, il loro spettacolo al Teatro Trastevere a Roma dal 20 al 25 marzo. Intanto ben ritrovati tutti quanti. Allora, anche se in viva voce facciamo una voce per volta, per cui cominciamo da una breve descrizione di questo lavoro. Stavo decidendo chi. Allora, Barbara Abbondanza, lei la parola. Ok. Sono Barbara Abbondanza, anche quello di Alfabeti comincio per prima, sempre io, AB. Quindi lo spettacolo fondamentalmente si tratta appunto di Circus, è il titolo, perché è ambientato all'interno di un circo, dove il circo è una metafora naturalmente, una metafora del potere. Okay, proprio come se fosse un'ambientazione odierna. C'è uno scontro generazionale, cioè tra i vecchi e i giovani. I vecchi che non mollano, vogliono ancora detenere il potere, e i giovani che in qualche modo vengono invece mantenuti ancora un po' come immaturi, no? Ancora non pronti. E c'è questo, e probabilmente non lo saranno mai prematuri perché i vecchi stessi non glielo permettono, non viene dato spazio ai giovani e quindi rimane questo scontro aperto fino alla fine dello spettacolo. E poi capiremo come si evolverà, ma dovete venire a vederlo. Eh beh, certo. Allora, mi dite anche come nasce il progetto, e come ci avete lavorato sopra? Sì, allora adesso parlo io, Patrizia Bollini, la seconda in ordine alfabetico. Il progetto nasce, in realtà noi siamo un gruppo formato 3 anni fa, ci siamo formati in giardino, abbiamo iniziato a fare gli spettacoli nei giardini di casa, praticamente. Poi ci siamo trovati bene, ci siamo affiatati e abbiamo deciso poi di chiamare un autore che scrivesse appositamente per noi quattro un testo specifico per noi e quindi abbiamo coinvolto Enrico Di Fabio che ha scritto appunto questo testo Circus. Io dico una cosa, il momento divertente vale tante cose è che abbiamo tutti un doppio personaggio, quindi ci stiamo divertendo molto a fare sia un vecchio che un giovane. Ok. E quali sono stati i vostri riferimenti, penso dal punto di vista sia artistico ma anche drammaturgico? Passo la parola a Lucia Sardo, questa domanda è La difficile. patata bollente. Esatto, grazie per questa bellissima domanda difficile, sono Lucia Sardo, in ordine alfabetico la testa. E, no, se vi dico, la realtà è che noi veniamo da provenienze diverse, però questo progetto, proprio all'inizio dei Four Garden, e quindi anche Circus lo conferma, nasce per una scelta che noi facciamo trattando testi di drammaturgia contemporanea. Per cui l'autore è contemporaneo, che è una grande fortuna e anche no, perché sai, non lo è presente. Però lo ha scritto apposta per noi, volevamo parlare appunto di una realtà del genere, della difficoltà di poter fare il nostro mestiere ma non solo. E quindi ecco che è nato Circus. E lo stile, poi anche quello che ci piace molto, è grottesco, i personaggi sono molto esagerati perché poi viene fuori la vera umanità del personaggio stesso e quindi diventano poetici ed è quello che ci spinge a fare questo mestiere. E questa, allora, a questo punto ci manca l'unico uomo che è Serafino Iorli. Dovrei dire qualche cosa. Dovresti dire qualche cosa perché ti trovi in mezzo a tre donne. Volevo sapere se tu sei il vecchio della questione. Beh, effettivamente sì, perché sono il più anziano. Il personaggio che faccio è una vecchia centenaria e poi faccio Apollonio invece che un giovane clown. Però volevo parlare di questo, che ci sono anche delle scenografie che sono stupende, e i costumi, facciamo dei cambi molto veloci, anche costosi, invece abbiamo fatto anche crowdfunding per raccogliere un po' di fondi. Sì. E, insomma, lo spettacolo è bello anche da questo punto di vista, appunto dei costumi e delle scenografie. Senti, e questa scelta del doppio personaggio per ognuno? Qualcosa, dimmi. Serafino, questa scelta del doppio personaggio per ognuno di voi? Risparmiare, così non ti arriva molto. Per risparmiare. No, perché effettivamente si parla di questo scontro generazionale ed era proprio necessario, secondo l'intento dell'autore, per noi è una grande prova d'attore. E in questo, ci sentiamo di dirlo perché è fondamentale, abbiamo un grande regista che sta lavorando moltissimo dal punto di vista attoriale e registico, che è Francesco Ambrogio, per cui che firma appunto la regia. E quindi siamo molto contenti di questo. Se posso aggiungere, Federico, a nome di tutti, Serafino ha citato il crowdfunding, è un'esperienza molto importante che stiamo facendo perché questo spettacolo avrà delle scenografie, dei costumi, video, foto, allestimento di un certo tipo, grazie al sostegno di tante persone che credono in questo progetto. E la risposta è stata commovente, per cui ci conferma il motivo per cui facciamo questo mestiere per il pubblico. Sì. Poi avevamo seguito proprio la nascita di questo spettacolo, proprio parlando della campagna di crowdfunding per il finanziamento. A questo punto vi chiedo anche dopo questa settimana al Teatro Trastevere a Roma, che succederà di questo lavoro? Ci auguriamo, abbiamo l'ambizione di farlo girare per tutta l'Italia fino a Broadway. Sì, andiamo Ma male che vada, andiamo all'estero a San Marino. Esatto, Un contatto. Senti, ci lasciate anche i riferimenti web per seguirvi? Allora, sì, abbiamo una pagina Facebook che si chiama I For Garden e poi l'evento che si chiama Circus ed è sulla nostra pagina dei For Garden e poi c'è anche, sono gli ultimi 3 giorni di crowdfunding, quindi c'è la pagina Produzioni dal basso barretta Circus. Perfetto. Allora, Barbara Abbondanza, Serafino Iorli, Lucia Ciardo e Patrizia Bollini con Circus, loro sono i Four Garden al Teatro Trastevere a Roma, 20-25 marzo. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Ciao. Ben ritrovato Massimiliano Bruno. E allora, come stai, carissimo? Bene. Io sono sempre un appassionato di Onda Rossa, quindi eccomi qui con voi anche oggi. Anche oggi. Allora, con te per parlare dello Short Lab dal 27 febbraio al 25 marzo al teatro Cometa Off. Tanto per chi ci ascolta, raccontiamo un po' questa avventura dello Short Lab che non è alla prima edizione. No, siamo già alla terza edizione dopo aver fatto anche un'edizione di esperimenti teatrali 4 anni fa e siamo arrivati alla terza edizione, è una vetrina per giovani artisti, attori, autori e registi che in qualche modo possono proporre dei corti teatrali o dei monologhi. E insomma ne parlo con grande orgoglio perché abbiamo fatto più di 200 debutti in questi ultimi anni. Giovani autori, 19, 30 anni, i nostri vincitori di Short Lab che comunque hanno cominciato ad affacciarsi nel mondo del lavoro, come Giuseppe Ragone o Cristina Chinaglia, Agnese Fallongo e tutti i giovani attori, giovani autori che stanno cominciando a mettersi in luce. Quindi sono veramente molto contento, è anche un modo per fare una vetrina, facciamo in modo che nella giuria ci siano addetti ai lavori, agenti e casting o produttori, registi, insomma fare in modo di fare un po' un provino a cielo aperto, ecco. Sì. Senti, com'è partito tutto 3 anni fa? Guarda, allora, in realtà questa mia passione per far lavorare, diciamo, cercare di cominciare a far lavorare i giovani nasce da molti anni prima, cioè nasce da quello che hanno fatto per me alcuni direttori di teatri. Piccolini, parlo ad esempio di Ulisse Benedetti del Teatro Colosseo, Certo. teatro che non c'è più purtroppo e che comunque quando io avevo 20 anni mi diede la possibilità di fare le mie prime cose.

grossa sproporzione. Quindi il pubblico sì, viene, ma non ci abbiamo le folle. Qualcuno dice perché l'avete già fatto, va bene, il rumore di fare scena va in scena da 20 anni, no? Certo, certo. Io adesso non so che affluenza di pubblico abbia, uno può anche proporre dei cavallucci di battaglia, su, se non vogliamo certo. chiamare cavalli. Sì, sì. Comunque ti ripeto, la gente che viene ne rimane molto molto colpita, perché la storia, tu lo sai bene, è molto coinvolgente, poi si ride, c'è un sacco di risate, sì, sì. Il dramma finisce con una morte, e quindi si riesce comunque a commuoversi e a ridere nello stesso tempo. Sì. E quello poi miro io sempre in qualsiasi spettacolo che faccio, emozionare. Certo. Credo che il teatro sia questo, credo. Senti Antonello, allora a proposito dell'attività dell'Angelo, ci lasci tutti i riferimenti per seguirvi su internet? Sì, beh, sì, assolutamente, se ci spostiamo, comunque prendiamo un attimo di tempo, ovviamente ci saremo sempre presenti, perché non è che vado a casa a vedere la televisione, non l'ho mai vista vedere la televisione, invecchiarmi davanti alla televisione come fanno molti, no, io fino all'ultimo giorno che mi sento giovane. Vado avanti, gioco a calcetto e faccio di tutto. Ok. Perché casomai mi sparo se divento vecchio, non voglio diventare vecchio. Vabbè, comunque c'è il sito internet, la pagina Facebook. Sì, sì, ma certamente. Perfetto. Assolutamente sì. Allora, ricordiamo In nome del Papa Re, un adattamento e una regia e un'interpretazione di Antonello Avallone al Teatro dell'Angelo, è cominciato il 9. Scena, mi permetto di ricordare, certo. 11 attori in scena, perché non sono da solo, certo. Siamo altri 10 attori vicino, scusa l'interruzione, ma per dire che non è un monologo, e siamo, scusa, ti ho interrotto. No, però se li vuoi ricordare, anzi, ancora meglio. No, a parte questo, no, per sapere che siamo tanti. Certo. Comunque, nemmeno non si può fare questo spettacolo. In scena fino al 25 marzo, Teatro dell'Angelo a Roma. Antonello, un abbraccio e ci si sente presto. E grazie tanto che ci siete. Ciao. E che esistete. Grazie infinite. Siamo in collegamento telefonico con Mariangela Gualtieri, che ha curato il testo dello spettacolo Giuramenti di Teatro Valdoca, che andrà in scena al Teatro Vascello a Roma dal 21 al 25 marzo. Mariangela, benvenuta. Grazie a voi. Ci racconti di questo nuovo progetto? Beh, è uno spettacolo che ha debuttato a Cesena già un po' di tempo fa, e nasce da un'esperienza particolare, cioè siamo stati 3 mesi sull'alta collina romagnola in un teatro in mezzo al bosco, un teatro di legno molto bello, tutto con finestre dalle quali appunto vedevamo il bosco ogni ora del giorno, e siamo stati lì, abbiamo vissuto insieme, condiviso il cibo, il lavoro, lo studio e soprattutto la coreografa, che è Lucia Paladino, ha deciso, anziché fare il training, di andare ogni giorno nel bosco con i ragazzi a perdersi. E quindi, insomma, tutta questa cosa particolare ha poi prodotto questo spettacolo che ha in sé l'energia di tutta questa esperienza. Senti, per chi ci ascolta, raccontiamo anche brevemente l'esperienza di Teatro Valdoca. Vuoi dire la nostra vicenda teatrale, sì, in generale? Sì, sì, sì. Sì, noi siamo nati nei primi anni 80 a Cesena. E Cesare Ronconi è regista. Ho cominciato come attrice, ma poi ho cominciato a scrivere dopo una decina di anni. E quindi ora sono drammaturga da parecchio tempo. È una compagnia un po' anomala, un po' particolare nel panorama italiano. Non saprei come raccontarlo meglio, perché ogni spettacolo in realtà è stata un'avventura particolare. Sì. Non andiamo la narrazione, quindi i nostri spettacoli non sono mai narrativi, e cercano piuttosto di creare un'energia di movimento in scena, nella quale poi anche il pubblico viene catturato e viene, insomma, con la quale comunichiamo livelli abbastanza profondi col pubblico, mi sembra. E non sono solo, non è solo un livello razionale quello che accade, insomma, che viene toccato. Sì. Senti, Mariangela, ecco, anche in base al racconto che ci hai fatto della creazione di questo lavoro, di giuramenti, e come sono le vostre modalità lavorative? Come interagite insieme? Come preparate gli spettacoli? In questo caso in scena ci sono 12 giovani attori e attrici. Ad esempio, sono stati scelti in 2 anni di seminari, laboratori che Cesare ha fatto un po' in tutta Italia. E già la scelta, la formazione del gruppo è parte della scrittura dello spettacolo, perché quando arrivano queste persone già portano parte della drammaturgia, insomma i loro corpi, le loro voci sono già una cosa molto forte. Poi in genere si fa un lavoro anche di formazione, spesso quando è possibile nei casi di queste grandi affreschi dove sono tanti attori, cerchiamo di fare un tempo di vita comunitaria insieme, quindi ogni giorno ci sono molte ore di prove, però c'è anche, si condivide il cibo, si condivide il riposo, eccetera. È un'esperienza abbastanza totalizzante per chi la fa. Poi questa comunità provvisoria viene sciolta e poi se ne formano altre o in altre occasioni, non hanno una durata lunga nel tempo, ecco, non ci interessa fare una compagnia strutturata, e c'è sempre un grande movimento di persone. Sì. Questo titolo, Giuramenti, come esce fuori? Giuramenti perché il regista cercava quella forza, quella determinazione che noi mettiamo quando facciamo un giuramento. Soprattutto un giuramento promissorio che riguarda un impegno, che riguarda il futuro. In realtà non si giura niente, è tutto lo spettacolo che noi consideriamo un giuramento. Un luogo è teatro, che è un grande atto di passione, di ardore per il teatro, e poi alla vita, a una vita pienamente desta, sveglia. Vicina, insomma, ad energie belle vive. Senti, Mariangela, volevo chiederti qual è la tua concezione della poesia e che rapporto hai con la poesia? Beh, sai, questa è una domandona molto lunga. Io non so, per me la poesia è un grande dono che ho ricevuto. Anche attraverso gli altri poeti, di un enorme, inesauribile. Penso che in questo momento sia importantissima la poesia, e a me sembra, dal mio punto di vista, di persona che gira tanto a recitare i propri versi, mi sembra che ci sia un bisogno estremo adesso di poesia, perché in questo tempo così frastornante la decisione, la lingua che parla in profondità, cioè che ti obbliga quasi a inabissarti stesso. Questo inabissamento è servitico, è sempre un atto che fa bene, insomma, e che pratichiamo troppo poco. Senti, a questo proposito ti chiedo se oltre alla tua attività teatrale prosegui nella lettura dei tuoi versi. Ed è una cosa che va da sola, non la promuovo, anzi sarò anche a Roma giovedì prossimo, questa piccola rassegna che fa curata e ideata da Elisabetta. Sì. Credo sia nel teatro di Villa Torlonia, sì. Quindi no, continuo, mi piace molto, mi sembra di dar da mangiare la fame, di dar da bere assetati quando faccio le mie letture di poesia, è una cosa molto mi piace fare. Senti, questo spettacolo dopo Roma proseguirà il suo percorso? Dunque, dopo Roma saremo a

grazie Rodrigo. A presto, grazie a tutti. Eccoci con Arianna Gaudio, che è coautrice e attrice in scena di Vota Kurt Cobain, che sarà in scena all'Alcazar Live a Roma il prossimo 25 marzo. Arianna, ben ritrovata. Ciao, ciao Federico, grazie, come stai? Tutto bene. Allora, era già stato in scena nell'autunno scorso al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ti chiedo subito intanto se poi lo avete modificato in qualche modo. Esatto, diciamo, quello è stata la prima volta in cui l'abbiamo rappresentato per il Teatro Quarticciolo, è stato il battesimo di Vota Kurt Cobain, in una secca, come si dice, che ci è servita intanto a metterlo in piedi. Poi lo stiamo sempre più ripristinando, grazie anche all'aiuto del regista a cui abbiamo affidato l'opera, io e Filippo, che è Federico Vigorito, che è un regista con cui ho lavorato anche in passato, di cui mi fido, bravissimo, e che si è anche appassionato allo spettacolo. Quindi sì, certo, quella risposta è sì, ci ho messo 3 ore, ma te... Allora, raccontiamo intanto di cosa parla questo lavoro. Esatto, dunque, è uno spettacolo che racconta la giornata di una donna, di una persona, Viola Finimondi, che si sveglia una mattina e scopre di aver vinto le elezioni politiche a sua insaputa. Quindi è una cosa, una riflessione sui cambiamenti accaduti negli ultimi anni tra la politica e il social network. Diciamo, un'esplosione di politica sui social network fino a portare tutto questo, diciamo, chiamiamolo ad un paradosso, ad un estremo, in cui proprio una persona singola può con un social network diventare addirittura un politico, un partito politico, un movimento politico. Ecco, e quindi racconta, il monologo racconta la giornata di Viola Finimondi, che si sveglia la mattina pensando di dover fare le sue cose e poi invece le cambia completamente la giornata. Senti, l'idea e la spinta a realizzarne uno spettacolo da dove viene? È venuta da me una sera con Filippo, perché proprio riflettendo su questi fatti accaduti, che accadono in Italia, insomma, dalla sintesi di tutto quello che stiamo vivendo e che succede in questi anni sulla politica, ho detto, ma è possibile che magari una persona normale può fondare un partito così, tanto ormai siamo talmente in alto mare in questo senso, e addirittura voglio fondare un partito che si chiama Vota Kurt Cobain. E da lì Filippo mi ha detto, scriviamolo perché è una buona idea, insomma, a noi ci è sembrata una buona idea ovviamente, e quindi l'abbiamo buttato giù e lo abbiamo scritto proprio, e poi da lì la voglia di metterlo in piedi, rappresentarlo, e lo abbiamo fatto. Senti, che al Quarticciolo che tipo di risposte avete ricevuto? Al Quarticciolo ricordo che, insomma, in una serata secca abbiamo avuto molti consensi, che è quello che ricordo io, però essendo una secca e comunque era un ibrido che doveva comunque crescere, la risposta è stata molto positiva. Ovviamente io mi rendo conto, sia io che Filippo, insomma, i collaboratori del tempo che avevamo, tra cui Beatrice Tomassetti, che è entrata nella prima stesura, nella prima fase dello spettacolo, e poi insomma abbiamo preso altre strade, siamo perfettamente consapevoli che era appunto una secca, che dovevamo farlo crescere. Quindi però la risposta del pubblico è stata molto molto positiva, e questo ci ha spinto anche a continuare, sì. Senti, e oltre a questa data all'Alcazar, poi come continuate, come avete pensato di procedere? Abbiamo dato anche lì, affidato insieme al regista un'altra figura che spingerà lo spettacolo, di procedere in tutta Italia, nel nostro piccolo, quindi abbiamo già dei contatti con altri teatri in Italia, e poi sì, di spingerlo. Diciamo che la leggerezza dello spettacolo, la qualità di questo spettacolo è che si porta ovunque, perché c'è una persona sola in scena, è leggero, si adatta a ogni tipo di situazione, che in questo momento non è, non non è sbagliato, non è, anzi è un vantaggio, ecco, diciamo così. Quindi sì, vogliamo portarlo, perché in realtà l'abbiamo rappresentato ben poche volte. Sì, saremo alla nostra sesta replica. E tutte le volte, lo abbiamo anche fatto nel maggio scorso al Teatro della Visitazione, dopo il Quarticciolo, che è il teatro che gestisce anche il regista Federico Vigorito, e anche lì ha avuto una buonissima risposta. In più era già stato modificato, aveva già avuto dei cambiamenti, e poi l'ho rappresentato anche in un paio di occasioni in estate, e di cui una volta anche a Grosseto, quindi insomma siamo un po' usciti da Roma. Sì, insomma, nelle poche occasioni in cui è stato rappresentato, la risposta è stata buona, devo dire, sono contenta di questa cosa. Senti, com'è stata e come continua a essere l'interazione Vigorito Gatti Gaudio? Beh, molto molto buona, è per questo che la stiamo continuando, è anche una bella amicizia. Io ovviamente con Federico ci avevo già lavorato, quindi Filippo e Federico si sono scoperti e trovati molto molto bene, e quindi questo diciamo, devo dire che è un bel trio il nostro. Naturalmente volevo dire anche che in scena sono sola, ma non sono sola, perché c'è anche l'aiuto di attori che non compaiono, ma che di cui si sentono le voci, attori bravissimi che hanno collaborato al progetto, e che sono, ne cito alcuni, appunto Valerio Aprea, Cristina Pellegrino, Claudio Morici, Daniele Parisi, Maurizio Luca, Erika Costantini, Carlo De Ruggeri, insomma, questi tre principali che hanno creduto in questa cosa e hanno partecipato con affetto e entusiasmo. Senti, la scelta delle musiche? Naturalmente le musiche, qui ci dovrebbe essere presente il musicista, il cantautore, il Gatti, è stata molto pensata da lui, però tutto questo abbiamo fatto un po' tutti insieme, però le musiche le lascio un po' più a lui, facciamo okay. Così. Se no mi si arrabbia. Senti Arianna, ho visto che c'è l'evento Facebook, quello per tutti i dettagli, giusto? Sì, naturalmente, tutti i dettagli, l'evento Facebook, c'è proprio la pagina Vota Kurt Cobain, e ovviamente sì, è scritto tutto lì. Comunque lo ribadisco, domenica 25 marzo alle 17 al Kazar Live. L'indirizzo mi sembra sia via Cardinal Merri del Val, però non 14. Vivo, 14. E quindi venite, godete di questa cosa e menateci pure eventualmente. Insomma, venite a vedere e poi riflettiamo insieme su tutto. Insomma. Benissimo. Arianna, un abbraccio e ci si vede a teatro. Grazie, grazie Federico. Buona serata. Grazie Ciao. Mille. Con Federico Tiezzi, che ha curato l'adattamento, la drammaturgia e la regia di Antigone al Teatro Argentina a Roma dal 27 febbraio al 29 marzo. Federico, ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci presenti un po' questa Antigone? Sì, senti, dopo io mi sono dedicato ai sogni, all'interpretazione dei sogni di Freud al Piccolo di Milano fino a un mese fa, e ora invece realizzo un mio sogno, e cioè la regia di questo testo di Sofocle, che per me è uno dei testi più belli che siano stati scritti per il teatro. E in questa tragedia la cosa che mi affascina di più è che c'è un'ambiguità di fondo che è affidata alle parole del coro, e questa ambiguità di cui il coro di Antigone parla è che l'uomo può dirigersi al bene come al male, e la domanda che il testo si pone è: chi è l'uomo del male che è annunciato dalla riflessione che il coro fa? È Antigone, che ha violato le regole, le leggi della città, le nuove leggi della città che ha dettato Creonte, o è Creonte che ha emanato un decreto che va contro le leggi degli dèi? E qual è il racconto di tutto questo? C'è una guerra a Tebe per la continuità